pezzi memorabili per non scordarli. Che cosa c'era in quel bicchiere, darling? Da quando mi hai lasciato a piedi, rapporti brevi è solo un modo come un altro per restare in piedi. Qualcuno balla, però una gara. Se porti l'arma, alla fine spara. Belle foto, ma ti ci rivedi. Non lo so, ma ormai è stappato. Che fai, non bevi? Dove sarei senza quella canzone? Che ci sarebbe di queste persone? Vuole salire, ma non sa il mio nome. È velenoso, anche se ha un buon sapore. In sala la musica balla, ciao. Sono quello che non balla. Io sto bene, ma non come quella volta insieme. In quell'attico, anche se solo per un attimo. E come baci e come morti, non è una cosa che ti scordi. Mai, mai. Mi sveglio alle 4, rileggo il contratto. La musica è frutto di errori che faccio. Ultimamente non sopporto certa gente e un po' li capisco se anch'io non gli piaccio. Sono negato a fare pace col passato, a fidarmi fino in fondo di questo mondo. Chi nasce tondo muore ovale. Al massimo ti penso ma schiaccio il pedale nel traffico. Silvano, perché non mi richiami mai? Mai. In sala la musica balla, ciao. Quello che non balla. Mai. Mai. Tutto sommato io sto bene.